chiamino al, come si chiama, devo mandare, devo fare altre due visite, hai capito? E una volta che mando poi quelle visite lì al centro, che saprò quanto invalidità mi danno, perché farò il corso, allora farò quella carta lì. Ti conviene aspettare, a te quando c'è l'invalidità fai la domanda via internet e ti arriva a casa quella carta lì, la carta europea di invalidità. Quando tu presenti quella in qualsiasi ufficio pubblico lì c'è tutto dentro. E poi ti dico fatti contare, come ti dizia Cristian, Natali nara le divaghe si contai. Esatto, ma comunque un togliaio questo cazzo di inclusione sociale. L'avessi appunto vada, non l'avevo manco fatto. Tutta questa cagata che devi fare, cazzo, controlli, documenti, eccetera, eccetera, mandare qua, mandare là, cazzo, mandare da una parte all'altra, diventare scemo. Non sai nulla, non ti ricordo niente, capito? L'Inps, a meno che non c'è qualcuno all'Inps che hanno fianato e ti dice direttamente che in pagamento la carta, non sai nulla. No, lo sai, basta entrare nel sito della SIL e sai se te l'hanno approvata. Però vanno voluto la Meloni, vanno rubigli a tutti, baghisti, a poca gente, rudaggini. Che è consulente degli altri. Ma se critichi rubigliano a tutti, hai visto che devi andare a travagliare. Se fai il ricorso, rudaggini 350 euro, se non ne fai non rudaggini nulla. A molta gente ne lo prendono, non hai capito. Non ne danno a nessuno, a poca gente brutti rudaggini, infatti non sono sicuro neanche se lo danno a me, perché dice quella del CAF che io ho il reddito troppo alto, secondo Luca Budetta. Sono pure invalido io. Basta fare il viso ordinario e te lo danno subito, gliela metti in culo. Sì, adesso vediamo. Tanto mi, se me lo danno mi fa piacere, se non me lo danno non mi sbatte nulla. Tanto il 29 agosto faccio 67 anni e me ne vado in pensione, se ne vado a fanculo. Ah, quello che è vero, 67 anni. Io devo aspettare 7 anni ancora, ero 60, figura. Se ci arrivo pure 67. Il discorso è quello. Cosa ne so io? Sbrigati a farti dare tutta l'invalidità prima dei 67 anni, se no dopo tocca fare la domanda, gatto, avere la pensione. È tutto un casino, invece a me passa automaticamente, perché io sono già stato dichiarato invalido prima dei 67 anni. Io vabbè, già ne ho tempo, non è quello il problema, il cazzo, ne ho 60 ancora. Prima fammi fare tutto l'aggravamento, eccetera, eccetera. Se mi danno l'aggravamento e la pensione normale, io faccio quello che hai detto tu. A 67 anni posso impiegare 300 e piglio 650, o quello che è. Sì, scatta automaticamente la pensione di invalidità, scatta l'assegno sociale. Automaticamente scatta se sei stato dichiarato prima dei 67 anni, se no bisogna fare la domanda. Già lo so. Tutto un rogliaio, cazzo. Avanti qui, Fabio. Partito, Antonio c'è rimasto, avanti Antonio. Sì, sono rientrato. Avanti, ripeti tra tu, Antonio. Ma chi è entrato? Luca Flipper, non Fabio. Cazzo, mi stavo in casa poco fa. Comunque, Luca Flipper. Ah, Luca Flipper, Luca, se tu già mi Fabio non ti risponde. Vabbè, mi sono intossimato, mi sono sentito. Ha detto che avevo un cibo nuovo. Vabbè. Ricordo se mi sei capito io poi. Fate l'immagine Alessio, cazzo, da bambino lo conosco, cazzo. Già 60 anni c'ha, bubu. Adesso vuole rotamato questo Alessio, vuole. Pure tu sei appena più grande, però non è che sei di quasi di una matessa, dai, mi. Ma Giammagone era nata lì quando l'hai conosciuto tu? Come? Giammagone era? Sì, Frocione paraculo era. Ah, ogni parolacci. Guarda che ero l'unico CB che era la mascotte della 27, il più piccolo ero io, mi. Già te lo ricordi, Uscia Porco. Sono andato nel 1964 a Baracchino. Falcone è entrato dopo 2 anni. Poi sono andato tutto il resto, poi è entrato. Io quando l'ho conosciuto Alessio era un bambino, era. C'aveva un presidente piccolino piccolino, tipo quello che mi hanno sequestrato a me. Era il presidente AR7 per esattezza. E prima di quello c'avevo il pace 123. Che anno sei entrato, Antonè? Buonasera a tutti, spegnete Baracchini, io che Alessio mi deve dire quando è entrato e frequenta lui. 1974, caro. Col pace 123, se vuoi ti dico anche chi era il padrone. Era mio cugino, quello che abita a Ottava, Piero Monti per esattezza. Il nominativo era... cazzo me la metto, ma non mi viene in mente, ce l'ho sulla punta della lingua, cazzo. A parte Tamara, la sorella, Marisa Pinucci, eccetera, eccetera, tutti quelli che parlavano a casa sua. In pratica ho dedicato la Grand Play, che quando l'ho piazzata... era un casino questo cazzo di antenna. Poi il baracchino non te ne parlo, non te ne dico nulla, 120 euro, cioè, no 120, 120 mila euro ho pagato. Il baracchino, l'antenna e l'alimentatore, il pace 123, la Grand Play, 4 radiali, quando l'ho piazzata in direzione dove sono parati i radiali. È pieno fratello. Comunque quando sei entrato tu io ero già stanco di modulare. 1972, febbraio. Io 76. Sono entrato nel 76. E vabbè, voi siete più giovani, chiaramente siete entrati dopo, ma è normale, no? Va bene, comunque. E prima di me, per questa c'è solo ed esclusivamente... Maria e coso, Salvucci, cioè Walter Salvucci, prima di me, Salvucci mi sembra che è entrato nel 68, non puoi immaginare, perché io addirittura ho conosciuto anche il padre quando modulava, Antenna 2000 si chiamava in frequenza. Io neanche me la ricordo, io mi ricordo che c'era... Sì, coso, Elio, Bravo Charlie, fratello, che modulavano tanti anni prima di me, a quanto mi ricordo io, poi le antenne me le aveva regalate a me, Elio. La direttiva, la giravo cazzo con i cavi di Nairo, te lo ricordi Natalì? Facevo dalla massata, da una finestra all'altra, cazzo, tirando. E roba di direttiva, quella con le cariche, due elementi. Bravo, quella lì. E poi l'avevo data a coso, a Giuseppe di Campanetta l'avevo regalata. Che poi l'aveva crepata a coso, l'aveva crepata. Simba, si erano bisticciati, è passato col trattore e l'aveva spaccata in due. Io a Walter l'ho conosciuto che era giovane, era magro, alto e magro era. Perché la moglie di Walter era collega della mia ex. Che la moglie di Walter era austriettica, era la moglie. Walter, mi ricordo, io a Walter l'ho conosciuto quando lui aveva appena 17-18 anni, ti puoi immaginare, fai il conto dell'attacco che può avere adesso e quanti anni è in frequenza. Antonè. Già lo so, adesso ci vuole più a girarlo che saltarlo a Walter. Walter è quanto è Memmi. Walter è del 57. E c'ha la mia stessa età, Walter. Allora, in questo... 57, sì, che ti puoi immaginare quanti anni è Walter. Fatelo conto, era un ragazzino. Io l'ho conosciuto che era giovanissimo, lui era venuto da me, era venuto a casa, mi ha suonato il campanello e ti vedo questo giovincello che è detto, e chi sei tu? Sono Walter. Ah, Walter, sì, vieni. Era proprio un ragazzino, proprio. Io ormai ero già un giovanotto grande, per cui, per dirti, no, siamo i più anziani della frequenza, io, Gio Maria e Walter. lì. Poi naturalmente c'è anche Claudio che ha tantissimi anni, lo stesso, mi sembra un anno dopo di me, sicché vedi un po', e qualche altro poi adesso non si sente nemmeno, buco. Vabbè, ce ne sono stati, c'era anche Mario Mouse per questo, che abitava proprio a fianco a Gio Maria, sono andati assieme. Quindi figurati, vabbè, ormai sono rimasti pochi vecchietti della 27. Era Calvino Passero, il collega del babbo di Alessio, vero? Che c'era? No, Passero Solitario è entrato un mese e mezzo, due mesi dopo di me, Luca. Io a Passero Solitario l'ho riconosciuto dalla voce, c'era un concerto in Piazza Italia e c'era lui e Giovanna, la moglie, e cioè Bettina è per questa, e ho sentito questa persona che stava parlando, ed eravamo uno a fianco all'altro, ascoltando il concerto che c'era in Piazza Italia, e io ho detto, ma scusi, ma lei si chiama Gavino? Sì. E lei chi è più avanti? E io sono il Giulio. Da quel preciso istante ci siamo conosciuti con Gavino e siamo andati d'accordo per sempre, tutta la vita, fin quando lui è stato in vita, lui veniva sempre a trovarmi in bottega, eccetera, eccetera. Una grande persona, bravissima persona. Ok? Poi sono stato anche a casa sua, insomma, diciamo che ci siamo anche frequentati, in poche parole. Vai, Natali. Ho conosciuto tutti, anche io, quella gente, Storia la Verde, Gatta, Gabriele a poco di niente, mamma mia. Lo so, sì, ma io sto parlando sempre delle persone che sono ancora in vita oggi, quelle tutte quelle persone ormai purtroppo sono decedute, come alla Verde, sempre quando c'era Marchisio anche, c'era, che addirittura eravamo insieme corridori, lui correva per la società Liberta Sacri, io correvo per la società sportiva Polisportiva Sassarese, ci siamo conosciuti che eravamo ragazzi, tutti e due corridori, che puoi immaginare, e tanti altri che ce n'erano allora, in quel periodo. Se per quello voi vi ricordate di un certo Andrea Doria che abitava a Latte Dolce, non so se voi l'avete mai conosciuto, forse Natalino l'ha conosciuto, Andrea Doria l'ha conosciuto Natalino? Mi sa di sì. Abitava lì a Latte Dolce, io me lo ricordo, anche lui era uno dei vecchissimi, poi se parliamo dei vecchi che c'erano anche prima di me, addirittura c'era Costanzo Orazero, il fratello Norto, c'era anche Nando Elettroni, che erano tutti prima di me quelli, ma poi erano tutti ragazzini che io ho conosciuto molto bene, tant'è vero, il primo ragazzo, il primo CB che io ho conosciuto è esattamente Antonello Norton, perché io avevo un toccai, un pony di 6 canali che avevo, e un giorno stavo passando lì, dove c'è adesso la questura, lì in quella zona, con la macchina, stavo passando a baracchino, e sono passato sotto casa di Antonello, e Antonello mi ha detto, ma sotto casa sì, io non so, io sono qua, aspetta che sto uscendo, è uscito ed era Antonello Norto, il fratello di Costanzo Orazero, come si chiama di cognome, se non me lo ricordo, vabbè, comunque già mi avete capito. Vai Natalia. Yeah. E purtroppo molta gente di quelli lì sono tutti di città Marchisio, non l'ho conosciuto lo stesso. Sì, la voglia. E c'era anche Bruno Uragano, c'era in quel periodo lì che parlavano insieme tutti questi ragazzi, c'era, me ricordo benissimo, ma grazie a Dio Bruno già è ancora in vita e dunque già ogni tanto già si fa sentire. Va bene, Luca. Cosa poi morto era? Simbad, non lo so se è morto, ma già l'ho conosciuto in frequenza, non di persona, ma già l'ho conosciuto in frequenza. Sì, è morto. È morto giovane allora? Usciva nella stessa azienda di Pierandrea Papalfa. Pierandrea è ancora vivo comunque. È sposato a Roma. C'è un figlio e... capito, era ancora vivo lui, Pierandrea. Comunque Simba era morto. il figlio che si imbarca da vivo invece. Abitava lì a Grattacielo, quando gli ho piazzato l'antenna, cazzo, mi è scappata la visa, io l'avevo piazzata io e già ne bravo due quell'antenna. Andiamo a buccare, cazzo, e non troviamo in quella palazzina il forattino, poi c'era il vuoto, poi l'altra forattina, gli ho detto, cazzo, ho detto qui un casino, gli ho detto già, cosa facciamo? E ci mettiamo il cemento, gli ho detto, e gli mettiamo le gaffe come stanno, cosa penso per fare, gli ho detto, gli mettiamo i tiranti finché dura. Infatti è rimasto in piedi l'antenna finché non è sceso il fulmine. Lo sai che sotto quel grattacielo sto pieno d'acqua, sì. Cazzo, per quello che mi è venuto un fulmine. Quel grattacielo è costruito sopra la ravaglia di acqua. Il giorno e l'ora che dovesse sprofondare, quel grattacielo fa finire brutto. Tutto pieno d'acqua lì da sotto. Figurati. Perché dove c'è il palazzo nuovo della polizia oggi non era tutto acqua lì, addirittura andavamo a giocare, anzi ti dirò che lì c'era una specie di stagno, c'era ed era morto anche un ragazzo che era annegato, c'erano le rane e da ragazzini andavamo lì a cercare, a prendere le rane, non so se voi ve lo ricordate, forse Natalino che ha abitato lì al monte avrà conosciuto quella situazione. Natalì, e cosa giù? Non stavo seguendo. Dove c'è il palazzo della polizia adesso c'era una specie di stagno, c'era come te lo vuoi chiamare sotto, c'era sempre l'acqua, sempre, perennemente, per anni e anni e anni, non si asciugava mai. E poi hanno costruito lì il palazzo, ma sicuramente hanno fatto un trattamento tutto particolare in modo che non venisse fuori l'acqua, è ovvio. E lì c'erano le rane e andavamo ragazzini piccolini a prendere le rane. E avranno purificato lì, perché Sassari sotto sta piena d'acqua, e li abbiamo conosciuti. E tutta Sassari piena d'eva. Lo so, anzi addirittura quella dragonaia, dai, chiamiamola così, si dice che sia, che passi sotto anche quel palazzo che c'è di fronte a quello che vende le vernici in via Montello, che quello lì è stato evacuato da tantissimi anni perché era in pericolo di crollo, e poi ancora in piedi, è stato disabitato perché l'hanno obbligati ad andare via da quella casa, e però il palazzo è ancora in piedi, da voi 20 anni e più è ancora in piedi, però doveva crollare da un giorno all'altro. Ma già è vera quella storia, quel palazzo l'hanno fatto evacuare mille proprio, perché per la storia che stai dicendo così dicevo, perché dice che sotto ci passava un fiume d'acqua, si passava, poi non lo so se è vero cos'era, il fatto sta dalle verifiche che hanno potuto fare, che hanno fatto, dicevano che quella casa era pericolante, da un giorno all'altro sarebbe crollata, invece grazie a Dio 20 anni, forse 30 anni sarà così, è ancora in piedi quel palazzo, infatti mi ricordo che abitava anche un ex carrozziere, se ricordo bene si chiamava allora Gigi Moro, che tra l'altro io ho conosciuto molto bene, amico di Mojito, meccanici, eccetera, eccetera. Gigi Moro, l'avete conosciuto, il carrozziere che poi aveva l'officina Predanieta, aveva. Molto probabilmente sì, ma non mi rammento, ma già la lavora io non ne ho 90, ma 89, capito? Sai come? Comunque già dovrebbe essere vera la storia dell'acqua, perché se l'hanno fatto evacuare, e poi se si viene la questura è vera, dico io. Appunto, è lì dove c'è la questura, c'era proprio una pozzanghera, uno stagno grande lì, questo grande, te lo sto dicendo, che l'ha negato anche un ragazzo una volta lì, perché si era buttato in acqua, ha fatto il bagno e si vede che non sapeva nemmeno nuotare, e dunque era negato lì, era negato, era pericolosissimo, eppure visto là, l'hanno prosciugato, l'hanno fatto il lavoro che si deve fare, in questi casi hanno costruito un bel palazzone dove appunto abbiamo la polizia lì, che adesso c'è la polizia in quel palazzo lì. infatti hanno trasportato tutto lì, anche la stradale è lì. La stradale è la polizia di Stato, prima era in via Genova la stradale, tutto lì hanno messo. Quello lì l'ha voluto Pisano, mi l'ha voluto far costruire, è per opera sua. Questo non lo so, però hanno fatto una bella, hanno bonificato tutto il terreno prima, a che sennò non potevano costruire in Chivi. Infatti per il Subarazzo, che è disabitato, quello che c'è in via Maldella lì, vicino a quello delle vernici, l'hanno proprio fatto evacuare quel palazzo. Infatti si avrebbe costruito quel palazzo dove c'è ormai gli uffici e la caserma della polizia, non lo so, l'impresa che l'ha fatto, che l'ha costruito, non lo so. So solo che hanno fatto un gran bel lavoro, ma veramente è bello, basta vedere, lo sabato che hanno costruito ed è una meraviglia, hanno fatto bene a spostarla, perché dove era prima non è che era una grande caserma, è dove era prima, era in un centro dove c'era troppo assemblamento, troppo traffico, invece lì va bene, anche perché deve andare per i documenti, eccetera, e lì va benissimo, non bene, benissimo dove è adesso. Ah, una cosa va male lì, non ci sono parcheggi, cavolo. Bene, male, mi ha voluto dire andare in Chivi. Appunto, figurati un po' quando dove era prima. Tu immagina, sì, la bacia di Gol a Santa Maria, dove era prima. Non c'è più mai il parcheggio in Chivi. Almeno lì, in quella zona, se non altro, si allarghi un po' e lo trovi il parcheggio, in tutte le strade che ci sono. Magari poi devi fare 100 metri a piedi, 100, 200 metri a piedi, però nelle vie di Dimitro per le trovi. Beh, è chiaro, con tutti i cazzi di macchine che bisogno, già stati, ci sono più macchine che persone, ognuno di noi ripeta, abbiamo due macchine a famiglia, minimo, figurati, è logico che a un certo punto i parcheggi scarseggiano. E senza contare quelli di Sassari e anche quelli di fuori, che vengono dai paesi, e quindi quelli vengono tutti in macchina. E insomma, a parcheggi non è che ci muovessi tanto bene. E beh, d'altronde la conformazione territoriale della città è quella che è. La gente, la macchina ce l'abbiamo tutti, ripeto, in una famiglia ce ne sono minimo due. Se noi dovessimo fare un sondaggio così, no? Per vedere quante macchine ci sono più macchine che abitanti gira gira Sassari. Per cui è chiaro che prima o poi i parcheggi scarseggiano e non ce n'è per nessuno. Però siamo anche abituati ad andare dentro nei negozi con la macchina. Ci dobbiamo abituare a fare quattro passi. Quando lo troviamo più lontano ci fermiamo ugualmente, invece no, mettiamo la macchina lì in doppia fila, in terza fila, e a voi se la mettiamo se arriva il vigile e ci fa la multa, perché ha ragione, perché a in quel caso lì è giusto che facciano la multa. Lì dove hai detto tu, tata, tutte le macchine ammassate, bisogna, non hai visto quante posteggiano i Chivi, Burundi non pone posteggiare. Ma io ti dirò, tu l'hai conosciuta quella zona, quando io ho aperto la bottega lì dove ero io, in tutta la strada, dalle scaline di via Sorso, sino a di fronte allo stadio dei Pini, non c'era una sola macchina, c'era solo ed esclusivamente la mia macchina e il camion di Giovanni Fiori, camionista, in tutta la strada. Tu immaginate quanto è lunga via Nutricevi, eh? Allora, tanto è vero, io mettevo la macchina dentro in bottega, sostavo la sera al naso, mi mettevo le pedane e la volta mi mettevo la macchina dentro, perché anche perché allora non ero nemmeno sposato, abitavo su a casa di mamma, per cui mi veniva anche facile vicino fare quattro passi da bottega a casa, era vicinissimo, mi era stato Manzoni, mia madre abitava, per cui mettevo la macchina dentro in garage praticamente tutti i santi giorni, la mattina la toglievo ed ero tranquillo che davanti non trovavo nessuna macchina, dunque potevo uscire. Là io già vedevo, oggi non solo di poter entrare, ma non riesci a parcheggiare, perché ci sono tante di quelle macchine che è una cosa impressionante, tutto pieno di macchine. bene, ma non solo lì in quella strada, ma in tutte le vie del circondario, tutto bene le macchine. Per mettere, la macchina deve allontanarsi parecchio, molto, molto, molto, da dove ero io. Infatti, ma cosa non vi so, nove lugu, ma come tutti i macchine. Gesù Cristo, mi vi so più macchine che cristiani. Giù. No, perché... Ah, Sanziaro Monte, allora. Io abitavo al monte, certo, abitavo al monte. La mia famiglia, mamma, babbo e fratelli, abitavamo tutti su a via Santo Manzoni, in quella zona lì. Anzi, per l'esattezza, piazza Logurinto, dai. Per l'esattezza. Dunque, lì non ce n'era di problemi di parcheggio, perché c'era una piazza grande, tranquilla e pacifico, sicché tu pensa che io ho la macchina, ce l'ho avuta dal 1966, fratello Gonto. Da allora arrivavo lì, nel mio vecchio 1100D, quello col cambio al volante, allora c'era il cambio lì al volante, era una macchina di lusso allora. Era. E dunque non avevo problemi di parcheggio, questo è quando arrivavo a casa, ma durante la notte io la macchina non la lasciavo per strada, andavo in bottega, mettevo le pedane e la portavo dentro nella falegnameria, per cui era riparata anche. Perché? Perché l'indomani mattina sapevo benissimo che potevo toglierla, se no non avrei potuto lavorare con la macchina dentro. Perché? Perché macchine non ce n'era in tutta la strada, c'era solo ed esclusivamente la mia vettura. E a 100 metri, a 100 metri, nemmeno 50 metri da dove ero io, più su, c'era un camion nella strada, nella via di fronte, cioè nella parte destra, salendo della via, c'era un camion di un certo Giovanni Fiori, camionista, e basta, tutto lì. Poi era tutto il traffico di quella via. C'erano manco una usa si può punire. Ma poi Raimondo, io l'ho conosciuto al signor Fiori. E certo che l'hai conosciuto, ero qui l'hai conosciuto, è morto, quando è morto, saranno un anno e mezzo fa, è morto anche, già lo sappiamo, era un uomo grande, aveva più di 90 anni quando è morto, 90, forse 92, 93, all'incirca così, per cui si può immaginare, e a voi l'hai conosciuto. Avrei conosciuto anche il figlio Raimondo, eccetera, anche lui camionista poi aveva fatto. Ehi, lo so, Raimondo è stato a scuola con me. Dopo esce questo libro. Raimondo buciava l'articolato. Raimondo portava l'articolato, sì, è vero, poi quando aveva, credo che avesse avuto un incidente e ha capottato, o cos'era successo, gli era caduto tutto il carico per strada, e lì gli avevano ritirato la patente, allora non stava facendo più il camionista, perché non aveva più quella patente grande, e si aveva comprato un furgone di quelli a quattro ruote, e faceva il lavoro così indipendente con questo furgoncino che aveva. Adesso non lo so cosa sta facendo, ma suppongo che faccia lo stesso lavoro ancora oggi. Non l'ho più visto a Raimondo. Non l'ho più visto. Eh sì, ha avuto un incidente, lì mi pare si era girato un rimorchio. L'articolato è una brutta bestia. Infatti, aveva avuto questo incidente, aveva perso la patente. Poi, se poi è stato riabilitato, questo non te lo so dire. Però so solo che poi, siccome non poteva più guidare il camion dove lavorava, allora si aveva comprato questo furgoncino e faceva i lavori così, con questo furgoncino, perché aveva la patente per la macchina e basta. E vabbè, comunque. E sposato, Raimondo è sposato già da qualche anno, so che la moglie fa l'infermiera, insomma, diciamo già è tranquillo, dai. E io la mia patente l'ho versata, perché non me ne facevo più nulla, capito? E c'ho la B, quella della macchina. Certo, intanto dopo 65 anni quella patente lì non te l'avrebbero più rinnovata, l'avrebbero loro declassato il merito e ti avrebbero lasciato la patente della macchina e basta. Perché dopo 65 anni quella patente lì non la puoi più avere, perché è finito gli anni di lavoro, o 67 che siano. po' come mio fratello. Mio fratello quella volta se vuoi immaginare con la patente che aveva, e ancora ce li ha mio fratello, perché mio fratello ancora cosa va 62 anni, 62, 63, e ce l'ha ancora con la patente. Può guidare anche il treno, con la patente di mio fratello, che ha mio fratello, può guidare anche il treno, perché ha la patente per pubblica, no? Per poter trasporto di persone, eccetera. Che ha guidato per 11 anni tra, ha guidato, ti puoi immaginare. Sì, anche io avevo la di pubblica. Parla del libro di allora questi sono, diciamo così. L'ho versata perché non fa a mantenerla. Devi spendere un sacco di soldi ogni volta che ti scade. Secondo me è anche continuo l'arma bianca. Solo il CQC costava, a me mi facevano pagare 350 euro solo di quello. Poi un mese di scuola guida dovevi fare. E lui, andiamo a rinnovare la macchina. La giubilata e la giù versata, non me ne faccio più nulla e quindi mi ha fatto la chiccia della macchina. Ha giù pure pagato a chi ha giù pagato in più per farmi la declassare. Sì, e beh certo, è così. Infatti poi mio fratello che non guidava più era entrato nel coso, come si chiama, quel parcheggio che c'è in via di fronte all'ospedale, insomma, dai, il parcheggio pubblico con la BTP sempre, ed è andato in pensione da lì, è andato in pensione un po' prima perché ha avuto delle operazioni sia al femore che alla spalla, e dunque gli hanno dato lo scivolo, gli hanno dato di qualche anno, e infatti adesso è già in pensione anche lui, nonostante che ha 62-63 anni, se no non sarebbe potuto, vabbè, i contributi ce li ha, non è quello il problema, ma quindi io, se no non sarebbe andato ancora in pensione, no? Lo so, così giovane, no? Finché non c'hai almeno 67 anni no, non ti fanno andare, no? Appunto, perché, ma siccome ha avuto questo infortunio, gli avevano messo la protesi nel femore e poi anche nel braccio, nella spalla, dai, perché non aveva più la funzionalità del braccio, però lui come lavoro è verniciatore di macchine, no? È anche carrozziere, tutto sommato, però il suo lavoro principale è il verniciatore. E ha lavorato sì da qualche tempo fa, e anche qualche lavorettino se lo fa di tanto in tanto, magari a conto suo, in un'officina che lui è amico e gli fanno fare questi lavori, o lavora per l'officina, ma è andato in pensione da poco, è proprio qualche mese fa. Per cui già adesso già è tranquillo, se vuole non può anche non lavorare più per niente. Anche perché mi ha detto non ha più gana, dice, di lavorare, e allora non lavorare, e vabbè, fin quando non mi danno la pensione, e infatti ha aspettato che le dessero la pensione, adesso è tranquillo e penso che al massimo se lo fa, lo fa proprio per il gusto di fare qualcosa. Chi ha sempre lavorato è difficile staccarlo dal lavoro. E infatti uno si annoia, non sa più cosa va, compreso quando uno si ferma è un casotto. Uno che è abituato a travagliare tranquillo che si annoia di brutto. Con le scatole posso anche stare in silenzio e guardarmi la televisione. Ciao a tutti, ciao a Natalino, Luca se ci ancora ascolta, Antonello, non lo so quanti ce ne sono. Saluto a tutti, vi prendete pure e divertitevi, dai. Eventualmente se ancora voglia dopo ora se che rientro e faccio un altro po' di casino, dai. Sì, vabbè, buon proseguo Giulio, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime allora, se ne ha voglia entra dopo, chi prenda chi vuole riprendere, per i saluti a Giulio. Appa, ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime, avanti Antone. E così è, e chi caga di travaglia pure a 70 anni lavora. Ah, ho visto che si giovanotti, che è una massa di mandrone, per carità di Dio. Poca voglia ce n'è di lavorare, non ne hanno voglia, è un'altra generazione. Io da bambino piccolo, gatta, ho lavorato sempre. Figurati, andavo a scuola e lavoravo allo stesso tempo. Sì, perché io ho lavorato tantissimo. E sto lavorando e dovrò continuare a lavorare perché, insomma, cosa fai? E tu sei anche costretto perché c'hai famiglia e devi lavorare. Da lì, Luca ieri mi ha detto che io mi alzavo un pochino tardi, o stamattina me l'ha detto, forse stamattina, perché gli ho detto che mi alzavo un po' tardi adesso la mattina, no? E gli ho detto, ma chi non basta che me ne sono pensato, fa 62 anni, me ne sono pensato al buio e sono rientrato al buio a casa. Non bastano 62 anni che mi sono alzato presto e sono rientrato al buio, perché facevo da buio a buio facevo. E dunque avevamo tocca a riposare un poco di più lo manzano, no? Io di sì, giù. Io pure me ne bisogna fare 4 di manzana a travagliare. E lo grido. E poi io sono che ne vanno a giubbocca cana, perché ormai siamo vecchietti e cosa ci vuoi fare? Pazienza, là. Riprendete, dai, vi ascolto se continuate, se no pazienza. Intanto mi accendo la televisione. Faccia pure, faccia come che fosse in casa sua. È guapo manzano, io avevo fatto via 8 quintali di mani minimo. E vabbè, voi cominciava da mezzanotte. Alle 10 non entra qua. E dai, mi buio mi zio qui in Natalia, te immagini, tu eri chi dai in via Sossi. Infatti, era mi buio mi zio, lui. È un messeraccio però, un messeraccio, sia l'uno che l'altro. Anche là così, cominciava alle 4 ma finiva alla 1. Io entravo alle 10 e finivo alle 8 la mattina, 8 alle 9, ma chi entrava alle 4 finiva a bulla alla 1. Io non avevo orario, io sai che finire travagliavo, si sani cosa vuol dire travaglio, i giovani d'oggi si assucciani. Se si travaglia davvero non hanno mai visto lui. E per Natale noi entravamo il 22, ok, il 22 entravamo e ne siamo il 24 a Manzano, sicché non sapevi quando era giorno e quando era notte, te ne accorgevi solo perché entravano gli autisti a caricare il pane. Perché è fatto così con l'amore, non sa più di nulla, travagli e buono. Niente, hai capito, in chimica non ne conosci vita, quando vai a travagliare bisogna cammellare e marcia. E uno dei colpi che sono di venire, stato con le luci a neo, il caldo, e furrendi, una di voi si sorravano i luci. E cosa conosci? E in estate ti posso dire che io manco dormivo, perché facevo dal divertimento andare direttamente al travaglio. Non mi cucavo, bambino, sempre un rumore della bialla e delle macchine in campo, e continuavo a lavorare, dormivo e pensavo all'indomani, come organizzavo per l'indomani, ti puoi immaginare, oh yeah, beh da vita, per carità, ma non mi lamento, grazie a Dio, beh, già mi è servito, dai, diciamo. E che dopo la visione ho messo lo stipendio. Lo so, oh Luca, e anch'io quando ero sotto le dipendenze della vita non avevo ambizioni, anche perché mio padre mi ha educato in questo modo. Tu non devi mai pensare ai soldi, ci penso io, questo è quando io ero giovane, eccetera, no? Soprattutto quando poi ho cambiato mestiere, che sono stato costretto perché la ditta dove lavoravo che aveva fallito io e gli altri, tipo Tonino Sai, tipo qualche altro anche, e siamo rimasti senza lavoro. E allora mio padre, che era capo operaio nella impresa Planetta, quelli muratori, no? Però il vecchio, non questi giovani di oggi. E avevano la falegnameria, avevano l'officina di Pablo, mi ha portato con lui e mi ha detto, tu non devi pensare ai soldi, nella maniera più assoluta, i soldi ci penso io per te. E così io gli ho dato retta e dunque poi ho fatto la mia carriera dopo aver imparato un nuovo mestiere, tutto lì. E addirittura addirittura li mandavano senza baga, andavano in casa l'Ubabu e fa imparare un mestiere, erano a pagarli né manco, e si sbagliavano a cudirli buru. E vide che era... Sapete se si può fare va giù? Oh, figurati, ma avevamo mai fatto venire in mente un particolare della vita dove lavoravo io. Io ho imparato il falegname da fratelli caso, no? La falegnameria, nei falegname più bravo che c'erano a Sassari e forse anche in tutta la, di tutta la Sardegna. E a un certo momento c'era un ragazzo, un certo Antonio, e aveva fatto un errore. Il principale lo chiama Antonio, bene ai nomi. E gli ha detto, cos'è che hai combinato? Niente. Pum! E parte lo schiaffo. Siccome questo ragazzino sapeva già che cosa gli sarebbe successo, quando il principale gli ha dato lo schiaffo, si ammassa lui e il principale è andato a vuoto. Ha colto una trampata. Lì pensate, ci 70 operai che c'erano, si è mettato una ghetta a relembi. Perché il principale non è riuscito a dare uno schiaffo al ragazzino che l'ha mandato a vuoto e lui si è sbilanciato ed è caduto. Aspetta, se era poco potente, chi su già flotto, mi giù. Perché quello l'ha schivato, è caduto il principale. Sì, anche perché era un uomo di una certa età, no? E anche pesantuccio come uomo, sicché va via buon un ciaffo da Gappao, va via. Però il ragazzino era più svelto di lui, si è ammassato e lui è andato a vuoto. Ha colto una trampata come te un aino in terra, c'era una padugura da voi. Aspetta, e se no babbo non va via il giaffo di Cristo. Sono andato in pasticceria, gatta, ma con un giaffo a me mi ha fatto qua. Siamo via, io rimando sorpreso perché è inconcepibile che quello che aveva. Murendi mi ha fatto qua un laboratorio. Cazzo, la mia pesava 100 kg babbo, guarda, e più era bugi del mondo. Però pugni non cudia mai a nessuno, perché aveva paura di tirare i pugni, che era peso massimo. E allora ti tirava lo schiaffo, ma lo già fu ti cudì ad alzava in asci. E gli avevo già conosciuto io tuo padre. E poi tra l'altro io in quella pasticceria mi avevo fatto anche qualche lavoretto io, tipo la porta a vento per entrare dentro, la porta del bagno, se ricordo bene. Insomma, qualche lavoretto avevo fatto anche nella pasticceria tua, o Natalì. Figurati. Ma dimmi tu. Cosa ti volevo dire, ma... Non so cosa dire. E li mandavano proprio per imparare il mestiere, andavano i padri di questi ragazzi e li piglia, mi rumano, rubo s'assumì, dice che già su, pur senza baga, l'importante è a capannire a mezzo alla strada, mi era. E così imparavano il mestiere questi ragazzi. Ma alla fine dire cosa ha fatto, se l'ha mandato a chi su, Giulio, quando l'ha contro il caffiotto, per la figuraccia che ci ha fatto. No, se stai fuggendo non mi sento, non si è più visto, non mi sento, se stai fuggendo non l'avevo più visto, figurati, si sta sbianchino, non ce l'abbiamo truccato poi per questo, per se fare. Perché allora si usava questo qui, e come ha detto Natalio, e il chimico di cui ha il caffiotto non mi si pare. E se per caso ti lamentavi contro i tuoi genitori, vediamo, non è uno dai genitori, tu, allora era così. Sì, già mi lamento io. Non si buffonava anch'io, no? Ma non potevi neanche, ma non solo di sbagliare così, non potevi neanche parlargli male ai genitori. Se proprio per dirgli tutta la rovescio, a lui già fu ticudia, tazzava 2 metri a terra. Buffonendi, sì. Addirittura c'era l'usanza che gli davano del voi al babbo e alla mamma, mi. Poca confidenza, chi non era amici tui. Sì, e beh, io e i miei fratelli, ai miei genitori le davamo del lei, le davamo sempre quello, ma non solo lui. Allora si usava così, si usava Natalì, si usava così in quegli anni, e beh, vabbè, comunque è anche sbagliato secondo me quello, e comunque non costava niente, era interessante, era tutto altro che ti conduceva ad una buona educazione, non era solo il fatto di dare del lei o del tu ai tuoi genitori, figurati, quello era cosa. A proposito, è morto l'unico barbiere che era rimasto in via La Marmora, signor Gavino. brava persona era in gamba. L'unico barbiere che era rimasto in via La Marmora. Appena che giravi da via il Rosello, sulla destra, per scendere, c'era un barbiere, ed era lui, Schino Gavino. E vabbè, quello non l'ho conosciuto, ritorno, è la verità. Su Rai 3, domenica 14 gennaio. Cosa ti voglio dire? Hai toccato il tasto dolente. Era un'altra educazione e un altro rispetto. Avranno i diritti curori ai genitori, questi ragazzi qua. Oh, yeah. Se ne hanno bisogno di l'anziani. La voce è pure troppo esagerata. A volte esageravano e facevano il rugabbo puro. Lo so, altra educazione era. Sì, perché era molto bianco. Diverso, noi non siamo buoni a educarli. Ma Natale è mio. E tutta un'altra severità c'era, dai. O c'erano dei genitori proprio cattivi con i figli, che prendevano la cintola, picchiavano con la cintola, o che prendeva addirittura il filo del ferro da stiro per cogli vignolo, dai padri e là che l'isisi del regno della Dilogoro, oppure qualcuno anche con la pompa, sacca le daiga. Questi non erano modi di educare i figli. A me la verità non mi ha mai avuto, ma vuole mamma, a me mi bastava uno sguardo, era quello, l'idea era quello, e capivo al volo quello che intendeva dire, figurati. E chi si è portato veramente a grande età, quando ero ancora mangiato, mi diceva vieni presto mille notte, e te ti avevo preso, e te rientra verso massimo le 10, sì, io magari arrivi a mezzanotte, quando arrivavo, ma compadre non ti ha detto che dovevi rientrare verso le 10, e vabbè, non sono le 10, ma andavo a dire, ma no, sono mezzanotte e mezzo, e vabbè, uguale, mi diceva, ma ormai ero a mano di età, sicché figura se poteva dire niente. Ma prima di quell'ora, cioè dopo quell'ora, quando avevo una certa età, non ci rientravo di certo. Oh, ma manco ma sogno. Che prima di Gigliani, li seguivano prima i figli giù, non era come adesso, ma si andava alla discoteca e te la ne mandava a buio, ma ti puoi attrivita, a me si sta, ma mi provare, mi pare pensando, non so come diventare maggiorenne, li seguivano prima i figli, non era roba da buffonanno. Però c'erano anche genitori troppo esagerati e poi i figli poi hanno imbigliato le cutae di muro, perché io so di un episodio qua che è successo. Mio nonno era molto esagerato, era troppo esagerato, un giorno gli ha sfasciato la testa a mio padre, poi da grande ha pigliato un golpe, da grande, perché poi è esagerato e ha preso colpi da mio padre, anche da mie zii. Vabbè, quello sì, lo so, ma per dirti no, queste cose non sono belle, giustamente, quando magari si trovava uno esasperato dal maltrattamento eccessivo, è chiaro che poi poteva anche, se ci sono quelle persone che sono un pochino più vulcaniche, e si possono anche girare, certo. No, ma no, non era il mio caso, né manco lo caso di Natalino, sono sicuro, eccetera, eccetera. Per cui è così. Vabbè, comunque, andava bene. Per strada tu giocando per strada, bambino piccolo, mi trovavi per strada una persona, ti vedeva, ti chiamava da lontano, vieni qua tu, e tu andavi tutto quieto, andavi vicino, che cosa c'è? Mi dica, si entrava la mano in buciacca, ti dava i soldi, vai a comprarmi le sigarette e sbrigati a venire che ti sto aspettando qua. Se ti rifiutavi, ti vegliava a Baralecci, ti si buttava a casa tua, ti buttava e bucavi dai genitori, perché? Perché tu non sei andato a fare il favore a quell'uomo che ti ha mandato a comprare le sigarette. Per dirti com'era, la mentalità di allora era una cosa assurda, Antonio, ci sono dubbi. Prova di fiducia a un giovane così, a vedere si vada. La prima cosa che mandi di cui non vedo che è stato al naso di qui. Vero Antonio? No, se non vai avanti ne vorrei dire a non si vede più. A parte questo, no, è capace che devi pigliare tutto il portafoglio. Ma per dirti, no, purtroppo era così, i tempi erano quelli e cosa vuoi. D'altronde eravamo anche usciti da qualche tempo un po' dalla guerra, perché allora, dopo 4, 5, 6 anni, ancora c'era molta umiltà, c'era da parte di tutti e dunque la gente si aiutava anche, perché era così, perché c'era molta povertà, eccetera, eccetera. Allora tu non era come oggi, e tu vedi nei palazzi oggi, nello stesso pianerottolo non si conoscono fra le persone, abitando nello stesso pianerottolo. Ma io mi ricordo mia madre in quegli anni lì, quando c'era tutta questa povertà di allora, portava le pentole del menestrone già pronto, cotto, ad una famiglia che abitava lì, vicino a casa, che poi tra l'altro ha fatto il CB anche per tantissimi anni, e gli portava le pentole già del menestrone, perché era una famiglia numerosa, erano poveri, e noi grazie a Dio qualcosina in più ce l'avevamo, e mia madre preparava per noi e per loro, preparava questa famiglia, andava, signora Giovanni, a volte li chiamava, non me lo ricordo più, guardi che gli ho portato questo, l'accetta. Sì, signora Gara, certo che l'accetto, ne abbiamo proprio bisogno, per dire, no, lui, oh, fai oggi a venire, prova a fare oggi a fare una cosa del genere, ma fa piacere. No, oggi non c'è più niente di quella roba, oggi... Vabbè, oggi grazie a Dio tutti hanno tutto, hanno, quindi no, non è più che salvarmi così. Sì, hai detto bene, oggi bene o male la gente il mangiare ce l'ha, non è come una volta ma dai. Mi raccontava mio padre, allora esistevano le lire, no? C'era la moneta d'argento che aveva un valore di 500 lire, ma 500 lire di allora erano un sacco di denaro, ma un bel vero. E quando andavi in un negozio, no? che buttava qualcuno la moneta da 500 lire sul banco, faceva un certo rumore, tutti si giravano perché conoscevano il rumore della moneta, che era importante, era una cifra importante quando magari andavano a comprare qualcosa, tutti si giravano a bagnare che la moneta da 500 franchi, che allora era una lira che valeva, non certamente la lira ultima prima del adesso, dai, diciamo, che avete capito. Vai, Natalia. Break. Avanti, break. Buonasera a tutti, doppio room da questa parte. Ciao già, buonasera. Buonasera anche a voi, non so chi ci sia, ciao Giulio, si è detto a Giulio Natalino e a te, dai, non so se ci sia altra gente. Comunque saluto tutti. Ciao Luca. Ma devi specificare già. Ciao Luca. Ciao già, devi specificare. Cosa? Quando dici buonasera a tutti, devi dire belli e brutti. E si rabbia lì. Non lo dico. Perché se i brutti si possono anche offendere. Eia, eia. Avanti Luca, non ti avevo sentito. Vai a Giulio. Ciao Gianni. Vabbè, tutto bene Natale, divertito, sì, abbuffato ti sei, regali belli hai ricevuto, meglio così, sono contento per te. Ma con i preservativi. Dino, oltre ad Antonio, ciao. Sì, regali, diciamo, profumi, ho ricevuto un orologio a cipolla da mio figlio e... poi già mi sono divertito, sono stato in compagnia. Una ziota. Ma ne ha due dopo, quello sì. Ah, la fai lì già. Cosa? La ziota, ma la fai lì. No, la fai lì. Ho capito la cipolla. La cipolla è un orologio, tu, quello con la catena, se non lo conosci. Ah, sì. È un po' datato, ancora esistono. Sì. Ci sono quelli moderni, tu. Ci sono quelli grandi, quelli piccoli, quelli medi. Io ho, diciamo, una collezione, dai. E mio figlio lo sa e quindi mi ha regalato, me ne ha regalato uno piccolino che mi mancava. Grappa. Non li uso, però nella vetrinetta che c'è il tavolino del salotto, gli espongoni. Bella rossa, figlio, per la camera, perché quello che avevo ormai era un po' sbiadito nei colori, che poi tra l'altro funzionava lo stesso, ma c'era ancora, però ho ricevuto un televisore grande da 24 pollici per il tavolino per la notte, non per la camera, perché io guardo un programma, mia moglie ne guarda un altro, sì che lei ha il televisore per conto suo, io con quello per conto mio, ci mettiamo le cuffie. Poi ho ricevuto un altro televisore da, come dire, da asporto, si può dire così, un televisore piccolino da portartelo anche in giro volendo, col suo antennino magnetico, c'è un antennino magnetico alto, sarà 10 cm, 12 cm, ma si vede che è una bellezza, anche quello prende tutti i canali, tutti indistintamente, la metti sulla capota della macchina e hai, oppure nel camper dove vai a campeggiare e ti guardi la televisione. Oppure te lo metti anche attaccato al muro o a casa, vicino nei paraggi della finestra, attacchi l'antenna e si vede benissimo, non bene, benissimo, senza bisogno dell'antenna esterna. E prende tutti i programmi, tutti, come un televisore normale, non c'è problema. Poi ho ricevuto due pantaloni, due maglioni, una radiolina, perché mi mancavano le radio, mi pare che ne ho 25-26, più o meno, no? Poi cos'era l'altra cosa che adesso mi sfugge anche? Ah, è un paio di cuffie straordinarie con ricezione ottica, nel senso che, ti spiego, il televisore grande che mi hanno regalato, per l'auricolare, e ci è voluta un'apparecchiatura completa, comprata a parte, per poter avere l'auricolare, cioè un collegamento ottico, si chiama così, Gianni. Come quello del microfono. C'è la roba che mio padre, che si mette praticamente, si attacca un apparecchietto al televisore e tu le cuffie ce le hai senza filo. Sì, oltre a quello però c'è un filo lunghissimo, ma lungo veramente, una bella cuffia professionale, corredata anche di volume e di tonalità, i toni anche ti può dare questo, perché attaccato al filo c'è un interruttore che puoi sia regolarti il volume che i toni. Per cui per dire, no, già è stato un Natale ricco per me. Oltre al fatto poi tutte le dolciume eccetera, i pakistani che sono goloso, per cui, ma con quello bisogna andarci piano, però perlomeno alla mia età. Vai Natali! Dai, io vi saluto che devo cenare fra un po' e quindi devo preparare che cosa. Ci sentiamo alle prossime, vi ascolto comunque, dai. Ciao Natali, ciao, buona carica. Ok, ciao Natali, ci sentiamo alle prossime. Capito già di com'era questa storia? Vado a cercare la presa. Questa cosa. Questo invece è per la notte, il 24. Va bene, ugualmente. Ad esempio la notte guardo sempre i programmi sportivi, la maggior parte io guardo programmi sportivi. Cioè con la presa per la cuffia non c'è la ma dove la cuffia? Alla fine controllando sul computer ho scoperto che c'era questo attacco, o si chiama contatto ottico, si chiama, abbiamo ordinato quello, in due giorni mi hanno mandato questa cuffia con questo apparecchietto, si collega a quello con un filo apposito che mi hanno mandato tutto loro, attacco, è una bellezza, e si sente che è una meraviglia, proprio se lo vuoi stereo lo senti stereo, se lo vuoi mono lo senti mono, se vuoi volume più alto lo puoi mettere più alto, oppure la bassa, capito? Già? Proprio un bel attrezzo, veramente. Noi l'avevamo comprato a mio padre perché alzava troppo il volume del televisore che non sentiva bene, e per non disturbare a quelli di giù e quelli di su l'abbiamo comprato queste cuffie senza filo, e lui se le metteva e ascoltava il televisore così. Sì, quello ce l'ho, addirittura quello lo usavo anche per ascoltare il baracchino quando io mi spostavo da una camera all'altra qua. Però se mi allontanavo troppo non sentivo più, perché era una cuffia a radiofrequenza, mentre invece poi successivamente ne ho avuto uno a raggi infrarossi, quella potevo andare anche in strada, io col baracchino acceso a casa andavo a buttare da Mondessa, allora c'erano i cassoni anche qua, non c'era la porta a porta, e sentivo il baracchino anche a distanza di 300 metri.